pomeriggio da Luigi Salerno, un piccolo appuntamento di verifica di questo primo percorso letterario. Per chi mi è riuscito a seguire, avrà notato che ho sviluppato i primi 5 capitoli di questo lavoro, dal titolo Vacanza di Lago, e c'è un tema, una situazione che si sta sviluppando, si sta aprendo. La protagonista è questa ragazza Martine, che è stata presa in affido da una famiglia di origine francese. E adesso siamo alle rive di questo lago di vacanza, dove incominciano a snodarsi gli eventi che poi porteranno allo sviluppo. Mi auguro che questo tipo di esperimento del romanzo audio abbia, sia per chi ascolta che per il mio modo di lavorare, abbia degli orizzonti che chiarificano bene la sonorità del linguaggio, perché la scrittura sono convinto che sia soprattutto una questione anche di sonorità, di scelte che debbano avere un significante ed un relativo significato. Un altro piccolo particolare: nella puntata di stamattina ho cambiato tonalità della voce narrante. È stato un piccolo gioco sperimentale per valutare che cosa poteva succedere. Se qualcuno di voi vuole lasciarmi dei pareri, stesso sul sito del podcast può commentare alla voce del capitolo, o può scrivermi o contattarmi su Twitter. Abbiamo diverse modalità. Per oggi è tutto, vi auguro un ottimo pomeriggio. You just heard track number 8 from the album Mozart Sonatas, CD 5, The Three Last Sonatas by Daniel Ben-Pinar from Magnatune.com.